onion. Sì. Sto beat mi immagino a Parigi su una bici arrugginita, pieno d'amici che fumano oppio da una pipa. Vedono doppio e pensano in quadruplo sulla vita, ma hanno tre donne per volta come spose senza far fatica. In un'epoca indefinita, un misto tra i 70 e i primi del secolo e gli anni che seguono, corrida di una gioventù impazzita, al seguito del sogno di un futuro che più inseguono e più non arriva. Ma loro aspettano intanto, leggono tanto, bevono alcol mentre commentano un film polacco. Io li guardo e mi domando quanto capiranno, quanti realmente saranno quello che dicono e fanno, ahimè. Qualcuno c'è, ma si nasconde bene tra camicie scolorite, barba incolta e sa guardare oltre. Nei discorsi finiti di mezzanotte nelle stanze, tono delirante, Woody Allen. Poeti maledetti, registi reietti, poveri dementi, puristi e finti innocenti. Equilibrismo a denti stretti, dove finisce la cultura iniziano gli atteggiamenti. E tu volevi fare il bohemian, bohemian, ma non sai fare il bohemian, bohemian. Volevo fare il bohemian, bohemian, ma non so fare il bohemian, bohemian. Di una bici ora ce l'ho, me la giro fuori città. Ho un iPod che non uso, una strana comicità. E sì, mi piacerebbe andarmene di qua, ma non è ancora il momento. Forse so viaggiare meglio con parole a tempo. Un complimento a chi quel coraggio ce l'ha, che c'è una cultura sotto braccio, che sia un'accademica. E fanculo a chi fa il finto clochard con i soldi di My Partner, che ci ha strippato quando ha letto Kerouac. Punto, a capo, a muovermi allo swing. Dice muoviti che c'è un appuntamento a Belleville. Buoni propositi, ospiti insoliti, prova a discuterci con Hemingway, Picasso e Salvador Dalì. E come sempre ogni migliore viaggio parte da un gancio col reale, poi si espande a lungo raggio. E come pure bohemian è una maschera da indossare, c'è chi lo sa fare e chi non può perché risulta un pagliaccio. Poeti maledetti, registi reietti, poveri dementi, puristi e finti innocenti. Equilibrismo a denti stretti, dove finisce la cultura iniziano gli atteggiamenti. E tu volevi fare il bohemian, bohemian, ma non sai fare il bohemian, bohemian. Volevo fare il bohemian, bohemian, ma non so fare il bohemian, bohemian.